I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. E così la vittoria del no al referendum sul preaccordo firmato da sindacati e Alitalia ha fatto saltare la ricapitalizzazione della compagnia e avvicina la prospettiva del commissariamento. Ora toccherà all'Assemblea degli azionisti, convocata per il 2 maggio, decidere le sorti della compagnia. Le banche creditrici e gli azionisti di Etihad hanno sempre detto che senza un'intesa condivisa non ci sarebbe stato futuro. Il governo ha confermato ancora ieri per voce del ministro del lavoro Poletti che non intende ora nazionalizzare la società. Era proprio questo il retropensiero di chi ha bocciato l'intesa, tornare una società pubblica. E la propaganda dei sindacati di corporazione e di base ha fatto leva proprio su questo per indurre la bocciatura dell'accordo firmato da CGIL, CISL e UIL, che invece contava sulla ragionevolezza e il buonsenso, prevedendo, come capita sempre nelle circostanze drammatiche, misure di riduzione graduale degli organici e del costo del lavoro. Pantalone però ha già pagato molto caro il carnevale aereo che è durato ben più di 10 anni e francamente immaginare oggi battaglie per difendere l'italianità e l'idea di una compagnia di bandiera suona anacronistico. Quando viaggiamo ormai siamo tutti cittadini europei, l'impatto popolare delle compagnie low cost ce lo ha insegnato, così come questa vicenda ci ha insegnato che il vero spread che ormai dobbiamo temere è quello tra la complessità della realtà che viviamo, interconnessa e globale, e la semplificazione dei messaggi della politica e della propaganda. Se continua così, la pancia conta sempre più del cervello e alla lunga porta solo a sbagliare e di brutto. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La notizia che ci aspettiamo in serata è che Donald Trump darà il via al suo ambiziosissimo programma di abbattimento delle tasse. Dovrebbe cominciare con l'annuncio di una nuova corporate tax, la tassa sulle imprese che scenderebbe dal 35% attuale al 15%. Accanto a questa vera aliquota rivoluzionaria, il nuovo presidente vorrebbe affiancare anche una sorta di condono per consentire alle imprese che finora hanno fatto profitti all'estero di rimpatriarli pagando solo una tassa del 10% e non del 35% come invece sarebbe adesso. Sono in gioco almeno 2.600 miliardi di dollari di utili parcheggiati fuori dai confini ad oggi. Trump dovrebbe fare marcia indietro invece sulla minaccia della cosiddetta border tax, quella che avrebbe colpito le importazioni. Le stesse multinazionali avevano fatto la voce grossa e probabilmente sono state ascoltate. È evidente che la corsa al ribasso degli Stati Uniti ripropone il tema della competizione fiscale tra Stati e può aprire la strada a un grande riposizionamento degli investimenti delle imprese. La stessa Londra del dopo Brexit ha annunciato tasse sulle imprese al 17%. L'Europa deve prendere atto che è arrivato il tempo di dare seguito a politiche di armonizzazione fiscale, tra l'altro funzionali anche a dare forza alla moneta unica. E in questa Europa già in difficoltà, che dire dell'Italia, dove il cosiddetto total tax rate sulle imprese è del 64,8%. Si può solo dire che c'è un bel tema da mettere in cima all'agenda della politica economica, altrimenti la crescita e lo sviluppo, francamente, ci riscordiamo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.